Nexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. L'incertezza sul futuro, sliding doors, siamo di fronte a un bivio, stiamo costruendo un bivio. Che cosa accadrà domani? Ne parliamo oggi con Alberto Mattiello, Future Thinkers Director di Wunderman Thompson, che siamo riusciti a collegare attraverso un ponte con Google Meet, perché Alberto in questo momento è in Lettonia. Buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora Alberto, stiamo pensando al mondo del futuro, ahimè, spesso cercando di capire come tornare al passato, no? Cioè cercando di trovare delle soluzioni che ci riportino a dicembre 2019, come ho più volte detto nelle scorse puntate di Radio Next. Ma in realtà che futuro ci stiamo aspettando, che futuro dobbiamo costruire? Ma allora, intanto, in generale penso che la grande variazione è che noi siamo passati da immaginare un futuro probabile, quindi no, basato sui dati che uno poteva più o meno prevedere perché c'era stato uno storico che ti poteva far immaginare cosa stava per succedere, a passare a un futuro possibile in cui l'incertezza ovviamente è il driver principale, e questo ti costringe ovviamente ad utilizzare molta più creatività e intuizione per cercare di immaginarselo. Il problema di leggere il futuro in questo modo è che, come dici tu, se lo interpretiamo come cerchiamo di ritornare a dove eravamo prima, io penso che lì ci sia una grande opportunità persa. Come ricostruire le relazioni con le aziende e tra le aziende e i propri clienti? Il tema importante secondo me è cercare di capire qual è il gap culturale che c'è tra quello che eravamo 2 mesi fa a quello che c'è oggi, e che cosa ci manca e che cosa è, che tappe dobbiamo comunque rispettare per poter essere pronti a ripartire in questa nuova fase 2, fase 3 che stiamo per vivere. Ma come si fa a colmare questo gap culturale? Perché è difficile riportare le persone sui banchi di scuola, rimettersi in discussione in un momento in cui le uniche certezze sono quello che facevo prima, facendolo come lo facevo prima, rimettere in discussione in questo momento, ormai siamo alle porte dell'estate, dove dobbiamo fare ripartire l'economia e ci spingono a fare ripartire le aziende, ci troviamo un po' in un impasse. Come faccio a superare proprio questa impasse? Questo è un momento meraviglioso, perché abbiamo avuto la possibilità di sperimentare tutta una serie di attività fatte in remoto per chiederci che cosa dobbiamo fare, che cosa vale la pena tornare a fare in ufficio. Allora, come lo dobbiamo fare? Nel caso specifico, io mapperei intanto tutte le attività che vengono fatte all'interno di un'organizzazione per cercare di capire intanto quali sono dipendenti da una locazione, quindi per forza devo avere le persone in quel posto, faccio un esempio, perché c'è un'attività produttiva che deve essere gestita. Ma dall'altra parte c'è tutta una serie di attività che sono dove il posto in cui le faccio può essere un posto preferito, può essere casa, ma non per forza solamente casa, i posti possono essere anche diversi. Il tema è che la distanza non diventa più un problema quando tutte le persone all'interno di un'organizzazione hanno imparato a usare le piattaforme. Allora, la mia idea nel caso specifico è quella di dire: capiamo quali sono le attività, cerchiamo di capire quali sono le cose che vale la pena fare in ufficio, cose invece vale la pena fare fuori, ma a questo punto ridisegniamo tutto, ridisegniamo l'esperienza del lavoro da casa, proviamo le piattaforme corrette per fare in modo che le persone possano anche girare il mondo facendo esattamente le attività che facevano prima, ma per esempio essendo più vicine ai mercati, o contemporaneamente riguardare l'ufficio stesso e rendersi conto che magari l'ufficio, per come è stato strutturato nel passato, non ha più senso. Allora, questo tipo di modalità di lavoro può essere applicata, secondo me, a tutte le funzioni aziendali. C'è però un problema di leadership, Alberto. Da una parte le aziende vorrebbero coinvolgere in questo cambiamento le persone, dall'altra le persone che non hanno abbastanza elementi fanno fatica a coinvolgersi e aspettano delle risposte. Quindi il rischio è un po' di uno stallo, da una parte, dall'altra leader aziendali che fanno fatica a guidare i propri team e le proprie persone verso un futuro incerto non avendo le istruzioni per l'uso. Anche qui c'è un grosso gap. Anche in questo caso, dal tuo punto di vista, come si fa ad affrontare questa problematica? Io penso che in questo momento le persone sono molto probabilmente mal posizionate, cioè il mondo più o meno stabile, anche se in grande fermento, che vivevamo prima, non è quello del cambiamento di questo momento. Per cui è importante, in termini proprio di stakeholder, non per forza i dipendenti di un'azienda, in generale tutti gli stakeholder che ruotano all'interno di un'impresa devono essere orientati secondo obiettivi diversi. Per cui faccio un esempio: io vedo importante tenere le persone più esperte in una squadra che si può chiamare di difesa, quindi che lavorano sulle risorse, che lavorano su tranquillizzare i mercati e che magari non abbiano paura di fare delle scelte anche forti per garantire la sopravvivenza di un'organizzazione. Mentre vedo persone completamente diverse lavorare sul futuro e quindi secondo me servono a riorientare quelle persone che all'interno dell'organizzazione abbiano la capacità di creare per esempio degli scenari, quindi di guardare in modo più ampio alla trasformazione che stiamo vivendo, ma non nei prossimi 2 mesi, nei prossimi 10 anni. E supportati da questi, mi immagino un team invece di pionieri. Ultimo punto, secondo me serve un team di azione, quindi persone che abbiano digerito i processi dell'IM e quindi che sappiano lavorare in modo veloce per testare queste idee sul mercato e quindi sappiano fare sostanzialmente un prodotto minimo indispensabile per poter verificare se dagli scenari e le visioni imprenditoriali che sono uscite possono effettivamente avere un'idea un'idea di business che possa poi garantire un secondo futuro all'organizzazione. Allora, in questo momento mi rendo conto, parlando con tanti imprenditori, che quello che succede è che le persone tornano in azienda, si guardano intorno, guardano i dipendenti, guardano i collaboratori, guardano le aziende, i consulenti e anche i fornitori e li vedono in un modo completamente diverso. Ecco, questo è un filtro secondo me che li può aiutare a mettere a frutto tutte le competenze che poi già ruotano attorno all'impresa. Allora, una delle cose importanti e belle anche da raccontare di questo periodo è che sia la scienza ma anche il mondo della tecnologia ci ha insegnato in diversi momenti che la cooperazione globale ma anche la competizione, quindi addirittura aziende competitor che si sono messe assieme per cercare di risolvere problemi del proprio mercato, sia la vera forza di questo momento. Quindi io invece vedo un punto di forza nel fatto di poter ovviamente essere più liberi nel tipo di relazione, essere più sganciati da problematiche fisiche per poter dare la possibilità alle imprese di poter connettersi a partner che magari non sono fisicamente vicini o fisicamente contattabili. Questo secondo me aprirà a chi riesce a costruire la giusta cultura all'interno delle organizzazioni, un sistema molto più aperto e molto più grande e molto più anche intricato. Tu hai parlato di collaborazione e competizione. Collaborazione all'interno di ecosistemi che però nel passato, nella forma capitalistica passata di mercato, hanno fatto molto fatica ad emergere. Non pensi che ci sia una nuova necessità, cioè quella di restituire valore non solo all'azienda, non solo al cliente, ma anche e soprattutto alla società? Io penso che questa missione in una cultura anche un po' più italiana, europea, sia uno dei grandi vantaggi rispetto a quello che invece vedo magari vivendo negli Stati Uniti, dove il driver principale è probabilmente altro, è probabilmente la crescita dell'organizzazione stessa. Detto questo, sono convinto che lì ci sia una chiave di successo fondamentale, ma a questo punto non solo di un'azienda o di un mercato, ma dell'intera società. Alberto, prima di chiudere, volevo farti un'ultima domanda. Siamo oggi in una società che è strapiena di dati, strapiena di informazioni, ma pare che queste informazioni non ci aiutino, non dico a predire, ma quantomeno a rendere meno incerto il futuro. Che cosa sta accadendo? Allora, anche qua dividerei due fenomeni, cioè la grande capacità, la grande possibilità di raccogliere dati ci dà la possibilità di predire ovviamente di predire il futuro. Ovviamente lo si può fare su fenomeni sul quale abbiamo avuto una registrazione di informazioni che dura tanto tempo. Okay. Purtroppo il momento che stiamo vivendo è tutto appeso a un virus che non conosciamo. Noi tutti ci siamo drogati in questi ultimi 2 mesi e mezzo di modelli matematici, di modelli previsionali, di dati, sapendo però ed essendo tutti consci che la lettura reale di tutto quello che abbiamo visto probabilmente riusciremo a darla solo fra un po' di tempo. Oggi il tema principale è quello, secondo me, di lavorare molto di più sull'intuizione. Sull'intuizione intendo dire non è solo un'analisi analitica del sistema, sì, all'interno del quale viviamo, che ci può permettere di uscire da questo mondo. Tutti noi abbiamo degli strumenti, dei sistemi operativi anche diversi che ci possono supportare a livello proprio personale e di impresa. È ora di metterli sul campo allo stesso modo di come abbiamo fatto fino adesso da un punto di vista più organizzativo, strategico e analitico. Ecco, però quello che tu stai portando alla nostra attenzione è l'intuizione che si porta dietro un concetto di rischio. Ma dal tuo punto di vista come si supera questa necessità di fare dei passi che vanno al di là delle informazioni che abbiamo e quindi prendersi dei rischi che oggi non possiamo, di cui oggi non sempre possiamo prevedere quali possono essere gli effetti? Ti do una risposta di marketing. Nell'accademia di marketing si sa che uno dei momenti fondamentali è il momento del passaggio, cioè il momento in cui io devo abituare le persone a nuove routine, a nuovi prodotti, a nuovi servizi. I momenti di passaggio nella vita delle persone sono momenti in cui le persone sono più predisposte al cambiamento, e quindi, che ne so, quando finisci l'università e vai a lavorare, quando ti sposi, arriva il primo figlio e così via. Allora, questo qua è un momento di incertezza totale e quindi di grandissimo passaggio. Allora, il concetto di rischio deve diventare figlio di una finestra di opportunità che è aperta in questo momento, ma che non dura molto, che dà la possibilità alle persone e alle aziende di prendere dei rischi senza pagarne troppo gli effetti. Quello che intendo dire è che oggi molte aziende, probabilmente più veloci e culturalmente più preparate, hanno osato lanciare servizi sul mercato, prodotti, idee, cercando di ovviamente attaccarsi a un flusso di cambiamento e quindi testando cose che magari erano già previste, erano già nei piani aziendali, ma utilizzando questo momento di cambiamento come test per verificare se queste possono avere effettivamente un futuro. Allora, il rischio farà sempre parte, farà sempre più parte del modo in cui noi ci dovremmo approcciare al mercato. Dall'altra parte, questo non solo è un movimento generale, ma in questo momento specifico è una grandissima opportunità. Erano le parole di Alberto Mattiello, Future Thinkers Director di Wunderman Thompson, che ringraziamo per essere stato qui ai microfoni di Radio Next con noi. Grazie Alberto. E grazie a tutti voi, grazie. E come sempre noi ci diamo appuntamento il lunedì per il podcast esteso di questa intervista con Alberto Mattiello, oppure la settimana successiva come ogni domenica 13.45 su Radio 24 Radio Next. Mi raccomando, il presente passato e reinventiamo un futuro. Un saluto da Pepe Moda.